Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Questa è una puntata speciale, particolarissima, perché questa volta il nostro protagonista non è una persona in carne e ossa come avviene di solito. Oggi il protagonista è un luogo, amato molto da tutti i milanesi, perché è un luogo di Milano, ma che ha delle caratteristiche per le quali questo luogo ha rappresentato per oltre 25 anni il cuore pulsante della musica, del teatro, dell'arte nella città di Milano. Come avviene per i grandi monumenti storici, anche il nostro protagonista è stato il fulcro di un'epoca. È un mondo incredibile, era fatto di suoni, di colori, di passione, di amore, di investimenti. Un luogo che ha significato molto per tanti e anche per me. Oggi raccontiamo la storia del Pala Trussardi, che poi è diventato Pala Vobis, Mazda Palace, Pala Sharp, a seconda degli sponsor che ha avuto. È un luogo nel quale sono passati tutti i più grandi del mondo. Si partì con Frank Sinatra, ma ci sono passati Elton John, Tina Turner, gli U2, Sting, Prince, Paul McCartney, Liza Minnelli, Bob Dylan, grandi eventi sportivi. È stato teatro di eventi religiosi di portata straordinaria. Insomma, è stato uno dei luoghi chiave della vita socioculturale milanese, ha allargato la fama di Milano a livello internazionale e poi, insomma, è un luogo che ha rappresentato molto anche per la mia vita, perché io ho fatto i calcoli, ci ho suonato 13 volte. Per raccontare meglio questa vicenda abbiamo con noi la signora Paola Ballerini, che è la direttrice del Pala Trussardi per i 26 anni della sua attività. Buongiorno signora Paola. Buongiorno. Intanto, lei come lo chiama? Lo chiama Pala Trussardi questo luogo? Sì, sempre. L'ho chiamato, lo chiamerò per sempre Pala Trussardi. Ma non solo io. Anch'io, cioè, in realtà non vorrei essere nei panni dei secondi, terzi e quarti sponsor. Perché no. il marchio è quello e infatti, tutti dicono ci vediamo. Nonostante il Pala Sharp sia stato su questa insegna poverina ormai per anni e anni, nonostante il Pala Trussardi non fosse più in attività. Però il Pala Trussardi rimane nei cuori di tutti noi. Esatto. Quando un amore muore. Iniziamo il nostro racconto con una nevicata, perché da questa eccezionale nevicata inizia tutto. Allora, torniamo a quel periodo tra il 15 e il 17 gennaio dell'85 a Milano. Allora c'era una giunta particolarmente efficiente, funzionale, era la giunta di Carlo Tognoli. Però Milano viene messa in ginocchio da quella che viene definita la nevicata del secolo. 72 ore ininterrotte nelle quali cadono 90 centimetri di neve, strade in tilt, rifornimenti che si bloccano, arrivano i carri armati dalla caserma cittadina Perrucchetti per spalare le strade. Insomma, Milano si trasforma, io me lo ricordo ovviamente, in una pista per slittini, c'era gente che andava in giro con gli sci, e fu anche un momento divertente, naturalmente. Fatto salvo il fatto che c'erano molti, molti disagi, alberi caduti, ponti e cavalcavie inagibili per giorni. Ecco, è incredibile come in questi casi forse il panico o comunque le difficoltà a gestire il problema abbiano creato una serie di problemi collaterali. Per esempio, a nessuno era venuto in mente ogni tanto di andare a rimuovere la neve che si era deposta sul nuovo palazzetto dello sport. Era una costruzione avveniristica con il tetto concavo e quindi lì la neve si era accumulata, nessuno aveva pensato di andarla a rimuoverla e di fatto succede che il tetto crolla. Questa grande opera milanese viene distrutta, non sarà mai più ricostruita. È un evento che fu molto scioccante per la città, insomma, che era una città che viveva, era in pieno craxismo, il ministro del lavoro era Gianni De Michelis, che era anche presidente della Lega Basket, e De Michelis era un uomo molto influente in quel momento, insomma, c'era molto interesse anche da parte delle istituzioni per il basket e Milano, che è la città del basket per eccellenza insieme a Varese, soprattutto in quegli anni, Varese, Cantù, Milano aveva il problema di fare giocare la sua Simac, ex Simmental, insomma la squadra mitica di Milano. De Michelis preme perché si trovi una soluzione. E a questo punto entra in gioco un personaggio straordinario di cui diremo il nome a blocco terminato, però intanto signora Paola, lei se lo ricorda bene ovviamente. Benissimo, è stato il mio grande capo per 26 anni. Il falco e il gabbiano. Tra le strutture più resistenti che esistano, tra quelle che danno l'impressione di essere incrollabili, sicuramente ci sono i tendoni dei circhi. Immaginiamo a quante sollecitazioni devono resistere, agli spostamenti, agli smontaggi, ai rimontaggi, poi ci sono le strutture interne, insomma i circhi ci sono sempre. Bene, a Lampugnano, vicino alla montagnetta di San Siro, c'è in quel periodo un tendone che è stato fatto costruire dalla famiglia Togni, però ha ospitato anche molti concerti importanti, tra cui il mio, ma non tra quelli importanti, nel senso c'era Ella Fitzgerald, c'è stato Sting, Eric Clapton, un tendone che è rimasto sempre clamorosamente intatto e che è sopravvissuto brillantemente alla nevicata del secolo. Ecco qua quello che stavo per dirvi prima. Signora Paola Ballerini, noi stiamo parlando di Viertogni. Come l'ha conosciuto intanto? Allora, di Viertogni l'ho conosciuto grazie a un'amicizia che aveva con questo signor Ivan Bianchessi, che peraltro oggi è mio marito. Conoscendosi, Ivan sapeva che Togni era in grosse difficoltà perché cercava una persona di fiducia che lo seguisse, perché erano iniziati già i lavori di costruzione del Palazzo Sardi. Quindi mi presentò a lui, ci trovammo in un circolo di tennis, ci siamo subito piaciuti e dopo un'oretta di chiacchierata lui mi ha detto: va bene, da domani puoi venire a lavorare con me. Ecco, questo è stato il nostro sì, è stata veramente una cosa, lo ricorderò per sempre, perché un incontro così non capita spesso. Che tipo era tu? Ma Divier è una persona straordinaria, a parte geniale, perché artistica, perché è un artista, un imprenditore molto fantasioso, al senso anche dello spirito anche organizzativo, non si ferma davanti a niente. Simpatico, molto simpatico, ama la poesia, lui ha scritto poesie, canta benissimo, oltretutto adesso nel suo pub si dà anche al karaoke. È stato veramente, è tuttora, perché tuttora gestisce, ha costruito il Linear Chuck in Piazza del Cuoco. Sì, ecco, sì. E quindi questa è la sua ultima opera, perché inizialmente... Per ora, perché oltre a costruire il Palazzo Sardi ha costruito il Pala Stampa a Torino, sì, Pala Mazda a Genova, quindi è super operativo, super. E credo che sia l'esperienza centenaria del circo, insomma loro sanno, certo, come risolvere i problemi, perché basta scaldare il tendone, giocare d'anticipo, valutare bene le emergenze, insomma Togni è la persona giusta. Propone al sindaco Tognoli e al patrone dell'Olimpia Milano, nel frattempo si chiama Olimpia la squadra, il patrone Gianmarco Gabetti, di ospitare la squadra nel teatro Tenda, e lui installa il parquet. Ovviamente per uno come Di Viertogni quelli sono problemi che si risolvono subito, e l'Olimpia Milano inaugura così un periodo di partnership con la tenso struttura di Togni. Il momento è favorevole e così Di Viertogni presenta al sindaco Tognoli il progetto di una struttura polivalente e innovativa, una struttura da 9.000 posti pensata per ospitare musica e sport, e al sindaco l'idea piace. Get the fire house. però i costi di costruzione sono altissimi, si parla di 5 miliardi di lire, che insomma allora erano tanti. Insomma, nasce l'idea di cercare uno sponsor, qualcuno a cui intitolare il tendone. Oggi è una cosa normale, però allora l'idea di sponsorizzare un luogo era assolutamente innovativa, non era ancora stata fatta in Italia. E allora cosa succede, signora Paola? Beh, in effetti sì, era un momento anche molto difficile, anche perché effettivamente 5 miliardi erano tanti e la famiglia Togni non era così ricca, diciamo, tra virgolette. E quindi questo sottolineo ancora, come hai detto tu, e do merito alla geniale intuizione di Didier Togni di cercare uno sponsor per un palazzetto dello sport, che in Italia non era mai successo. Infatti le aziende erano un po' titubanti. Infatti era stato chiesto a qualcun altro. Sì, certo, Togni era andata alla Commodore, è andata alla Fiat e alla San Pellegrino, che peraltro non ha detto di no alla sponsorizzazione, ma ha suggerito un cambio merci con lattine di... troppo gonfia lo stomaco. Certo, poi... ha giocato d'azzardo Didier, ed è andato direttamente dal più, cioè, oltre Armani c'era Trussardi, ma Trussardi era bergamasco, comunque imprenditore più aggressivo forse, eccetera. Quindi è andato da Trussardi, il quale ha subito detto sì, mi può interessare, anche perché lui in quel periodo doveva lanciare la nuova linea Action. E quindi poi è bello, insomma, una roba, cioè, io fossi miliardario lo farei, no? Certo. Cioè, chiamare tutta la gente che ci vediamo al Pala Ruggeri, cioè sono soddisfazioni. Capisco l'entusiasmo di Trussardi. In effetti Trussardi iniziò con questa idea di farlo diventare Pala Action, che non era male anche come nome. Però cambiò repentinamente, perché Trussardi venne a sapere che per l'inaugurazione del palazzo avremmo avuto ospite Frank Sinatra. Quindi voleva farsi bello con Frank Sinatra. A quel punto ha fatto uno scoop lui, perché ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera annunciando che il palazzo a Lampugnano, la nuova struttura, si sarebbe chiamata Pala Trussardi, avrebbe inaugurato con il concerto di Frank Sinatra. Quindi stato proprio un bel colpo, lo invidio molto. E infatti arriviamo a quel 26 settembre 1986, il giorno del recital di Frank Sinatra. È la prima volta che Frank Sinatra si esibisce in Italia, peraltro riprendendo un'abitudine di concerti americani che si era un po' interrotta quando i compagni che sbagliavano, le Brigate Rosse, nel 1981 sequestrarono il generale della NATO James Lee Dozier. Insomma, c'era stato un pochino di cautela a quel punto da parte degli americani. Frank Sinatra torna e la prima esibizione di Frank Sinatra in Italia avviene in una struttura appena nata, che era costruita per essere smantellata subito, teoricamente dal punto di vista legale una struttura abusiva, perché ha un'autorizzazione provvisoria, però in realtà non è così, viene concessa una deroga attraverso un nulla osta regionale, ma tutto questo non impedisce che tutta l'Italia e in un certo senso tutto il mondo parli di quello storico concerto di Frank Sinatra. Milano è emozionata e pronta ad accoglierlo con tutto il suo calore. Il falco e il gabbiano. In deroga alle nostre abitudini, noi questa volta stiamo raccontando non di una persona, ma di un luogo, chiave, diciamo, dello spettacolo, della cultura, della vita di tutti i milanesi, della mia vita. Insomma, stiamo raccontando la storia del Pala Trussardi. Sotto il tendone, anche continuiamo a chiamarlo tendone, in realtà non era una struttura ben più solida di un tendone, partendo dallo storico concerto di Frank Sinatra, poi sono arrivati tutti. Noi abbiamo la signora Paola Ballerini, che è stata per 26 anni, cioè per tutta la vita del Pala Trussardi, la sua direttrice, quindi è la memoria storica di questo luogo incantato della nostra città. Intanto le devo chiedere cosa si ricorda del concerto di Frank Sinatra. Tantissimo. Immagino. Non basterebbe questa puntata per raccontarlo, però fu un'emozione grandissima, al di là del fatto di incontrare personalmente Frank Sinatra, quindi ha proprio piacere, sì, Paola, sì, Frank, sì, sì. E quindi è stata veramente un'emozione grandissima. E poi tutto il suo contorno, a parte l'organizzazione, solo mi ricordo l'organizzazione del parterre, perché c'erano infatti i parterre di Roi, ma non bravo, mancava solo il Papa, poi c'erano tutti. I biglietti costavano tantissimo, però c'era anche una parte di parterre che andava adibito, certo, agli ospiti. Non puoi mica far pagare il biglietto ospiti a Roger Moore. Ecco, ospiti di Frank Sinatra, infatti c'era Roger Moore, Zaminelli, sì, eccetera. C'era Craxi, c'era Craxi, tutto il Gotha, Martelli. Tutti. E lì era difficile, c'era, anche proprio dal punto di vista diplomatico. Diplomatico, c'era Pertini. Ed è stato io camminavo, guardavo questa gente e dicevo: no, sto sognando, non è possibile, sì, che siano tutti qua insieme. Anche perché per un mese io e la signora Craxi abbiamo lavorato come pazze fino alla notte tarda alla banca commerciale, perché era lì che si vendevano i biglietti, per fare la pianta del parterre, certo, con gli ospiti. Avrà cambiato questa pianta 100 volte. Magari c'è quello che è più importante di quello, sì, no, siamo in due, siamo in quattro. Alla fine sai com'è andata a finire? Che ognuno si è messo dove? No, abbiamo dovuto aggiungere una fila. Certo. Perché gli ospiti di Frank Sinatra non volevano stare in seconda fila, ma volevano stare in prima, tutti in prima, e Craxi naturalmente anche, quindi però a quel punto è gente che insomma si offende, sì. Direi fantastico. Andiamo avanti, insomma, il riconoscimento che deriva dal concerto di Frank Sinatra fa lievitare le quotazioni del Palatrussardi. La struttura diventa un punto di riferimento, gli artisti vogliono venire in Italia e capiscono che quello è un luogo affidabile anche per le loro esigenze. Perché ci sono artisti, per esempio, che avevano, signora, non so, qualche mania, stranezze, camerini cambiati di colore, vezzi, capricci. Oh sì, tantissimi. Mi ricordo una cosa che mi ha fatto molto piacere, anche perché c'è stato anche Benigni al Palazzo. Sì. Ecco, è stato Benigni in occasione del Festival dell'Unità. E Benigni era all'inizio. E mi ricordo che due ore prima di entrare sul palcoscenico, di salire sul palcoscenico, girava nel backstage, pallido come non so che cosa. Allora gli ho chiesto se aveva bisogno di aiuto, che cosa succedeva. E lui: non ce la faccio più, non ho voce. A quel punto dico: Panico. Dico: senta, stia calmo, non si preoccupi. Qui c'è il Festival dell'Unità, ci sono le cucine. Adesso mando a prendere dell'aceto bianco e lei si fa i gargarismi con l'aceto bianco. Lui mi guarda e dice: no, mi prende in giro. Dico: lei stia tranquillo. Ha fatto i gargarismi. Dopo due ore salito sul palco con una voce straordinaria, aceto bianco, poi, diciamolo a tutti i miei colleghi, certo, solo ad alcuni. Pavarotti anche, è stato lì anche Pavarotti, sì, per cui anche lui aveva tutte le sue manie e con i suoi fazzoletti. Un giorno ha perso il suo fazzoletto e siamo diventati pazzi. Sì, correva per i camerini urlando: il mio fazzoletto, voglio il mio fazzoletto. Certo, e così altri, David Bowie, che insomma aveva il suo camerino, che era una roba pazzesca, con incensi, di tutto di più. Paul McCartney, ma non basta questa puntata per raccontarci tutto. E insomma, il Palatrussardi diventa veramente un punto di riferimento. Io lo ripeto perché mi vanto di dirlo, ci ho suonato 13 volte, ma sarò andato altre almeno 26 volte a vedere gli altri, a vedere i Paul McCartney, Elton John, li ho visti tutti lì. E poi lì c'erano le sessioni sportive, poi c'erano gli incontri politici, e poi c'era il raduno dei fedeli di Medjugorje, ma c'è stata la visita per esempio del Dalai Lama, quindi veramente il Palatrussardi ha incontrato la storia. Sì. E poi ci sono stati tanti bei concerti. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Quanti eravate a lavorare al Palatrussardi? Allora, Palato Sardi, apro parentesi, comunque Togni viene da una famiglia circense, sì, quindi abituata a far lavorare pochissima gente per, e soprattutto con competenze diverse. Quindi eravamo Togni, che era il grande capo, io, lui mi chiamava il suo braccio destro, un assistente mia, un tecnico, Poli, mitico Poli, sì, che, tutti lo ricordano con grande amore, soprattutto sì, i fonici, quelli audio luci, eccetera. E 10 operai. Fine. E una parte, sì, la contabilità che era composta da 2 persone. Punto. Beh, ma basta. Allora eravate bravi e lavoravate tanto. Sì. Sa che a Wembley sono 300-400 persone, lo so, per tenere lo anche stadio di Wembley. Sì, sì, ma lo so, lo so. Io ho visitato diversi palazzetti prima di prendere, diciamo, di inoltrarmi in quello che era il ruolo da direttrice, certo, perché i primi anni seguivo Togni per certo imparare qualcosa, ma soprattutto da tutti i promoter. Certo. I promoter sono veramente, sono stati una scuola per sono me. Sono stati una scuola, io uno lo voglio ricordare perché è quello che mi portava sempre lì, che è Marco Langio. Infatti, lo ricordo con tanto amore. Lo ricordo, ahimè, non c'è più, c'è e più, quindi lo sì, ricordo con molto amore. Sì. Poi arrivano i cambi di nome, nel 96 Palavobis, nel 2002 Palattacker solo per 3 mesi, perché poi diciamo Mirko Eusebi, il fondatore dell'Attacker, incappa in una serie di disavventure fiscal finanziarie e quindi esce di scena anche bruscamente, e poi arriva Mazda Palace e infine Pala Sharp, dal nome della società giapponese di dispositivi elettronici. Però va detto, come dicevamo prima con la signora Paola, che per Milano quello è sempre il Pala Trussardi. Negli ultimi tempi ci sono state anche manifestazioni politiche, perfino il famoso V-Day di Grillo del 2007. E la cosa bella è che in tutti questi anni, dal punto di vista tecnico, il Pala Trussardi era sempre stata una realtà abusiva, cioè ogni 2 anni arrivavano delle proroghe, e tutto questo fino al 30 aprile del 2011. Poi cosa succede? Nel 2011 la struttura, per non essere abbattuta, viene acquisita dal comune. Sì. Quindi, essendo proprietà del comune, è intoccabile, però bisogna fare sempre il bando di gara per la gestione. Siccome certo, Togni comunque è sempre stato il proprietario, oltre che gestore, si è visto costretto comunque a fare questi bandi di gara. Meno male che andavano quasi deserti, eravamo gli unici, perché non è semplice gestire una struttura del genere comunque. E non c'era ancora gente preparata e comunque un po' pazza come lo eravamo certo noi. E quindi abbiamo fatto dal 2011 al 2014 4 bandi di gara per rimanere su. Nel frattempo Togni aveva preparato anche un nuovo progetto per la ristrutturazione sì, del palazzo. Il progetto poi, era piaciuto tantissimo, ma siccome le giunte litigavano, perché ecco, c'è sempre l'opposizione che mette il bastone sì, fra le ruote, quindi non è mai stato possibile. Dicendo, la scusa era che ormai era inagibile, perché la struttura era vecchia, è vero, però con alcuni accorgimenti e il rifacimento si poteva benissimo ovviare certo al problema. Anche perché c'era l'Expo che stava arrivando, per cui era una struttura che comunque sarebbe servita. Anche sì, perché ma a Milano non ce n'è altro, oltre al Forum di Assago che è sì, fuori. Sì, però intanto è fuori, e poi dal Palato Trussardi i concerti si vedevano veramente bene. E poi si sentivano si meglio. Si sentivano molto meglio. Ecco, si sentivano molto meglio, e poi comunque eri più partecipi al palco, eri più vicino al palco. Bravo. Per esempio oggi al Forum di Assago, tu se non hai tutti i maxi schermi non puoi fare il concerto, perché no, il pubblico vede un puntino in fondo e dei maxi schermi, è come andare in televisione. Il Pala Trussardi era completamente diverso, lì il concerto l'alito lo vivevi. Io vedevo concerti quando e facevo concerti quando non erano stati neanche inventati i maxi schermi così come li immaginiamo bravo oggi, bravo, eppure tu vedevi il cantante sul palco ed eri con lui sul palco. Io sono un video fatto al Pala Trussardi Trussardi, c'è cioè un DVD, video registrato al Palazzo Trussardi, e c'è la gente a tre metri da me. Lì, infatti per cui insomma beh, e come... anche per lo sport, perché avevi i tifosi che alitavano sì, proprio su, il basket è stato lì, ha vinto di tutto l'Olimpia Milano. Beh, anche grazie al posto al Palazzo Trussardi. D'altra parte insomma noi italiani quando ci dobbiamo fare del male siamo fantastici, quindi il risultato è che oggi il Palazzo Trussardi o il Palazzo Sharp se preferite è totalmente abbandonato al suo degrado. Lì ci sono i rifugi dei senza tetto, ci sono i tossicodipendenti, ci sono i musulmani che pregano il venerdì, quelli sfrattati da Viale Jenner, insomma c'è qualsiasi cosa tranne la musica, che rendeva il Palazzo Trussardi uno dei punti nevralgici della città. Io ringrazio la signora Paola che è stata fantastica. A te, Enrico, è stato un piacere. Auguriamoci che chissà qualcuno ci ragioni sopra su queste cose come il Palazzo Trussardi e in generale insomma sulle cose belle che avremmo in Italia. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare dei colpi d'ala o, come in questo caso, di luoghi dell'anima e del pensiero come il Palazzo Trussardi, che è stato un colpo d'ala continuo. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito radio24.it, venite a cercarmi sui miei Facebook, Twitter, sui miei social, sui social del Falco il Gabbiano, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.